poi c'è l'Italia, la popolazione è bellina la verità. Invece in PMR se tu vai su 10 o fra la sera, senti la corsa, i cabelli tranquilli, parlano sempre i francesi, sul 10 in PMR. Sul 10 in PMR? Allora, come cavolo? Aspetta che c'è un... Allora, PMR arriva sino a... Ho capito. Di chiara. Ma questo è il codice 10. Devi controllare il canale 10 PMR, la frequenza. Invece in pratica sono sul 9, sul 10 e anche sul 9. C'è propagazione lì, tutti i giorni, mattina e la sera, tu parli e cominci a ascoltare dalle 2:30 fino alle 6:30, ma ti arriva al fondo scala, lì, hai capito? Figurati tu. Adesso la frequenza non me la ricordo la verità, ma comunque sia, c'è tutti i giorni, ma io lo sento tutti i giorni mi, con l'antenna VHF che ho, la VEU, è una cosa allucinante, non ho mai sentito in vita mia. Attore, dimmi. Chi sta? Ho detto. Qual è la frequenza? La frequenza non me la ricordo, cazzo, la verità, bisogna che te la cerchi, le canale 10, quindi a un certo punto devi cercarla tu. Basta controllare sul coso, su Google, lo trovi subito, canale 9 e 10 PMR normale, non DMR, no, PMR. Ciao. Allora, io ho la cartella, del PMR, cartella. Allora, c'è PMR, LPD, c'ho tutta la cartella, che fa dall'1 al canale 8 e poi giù ci sono i codici, sono i codici però, non c'è la frequenza. Senza codici io sono, che cazzo il codice da che c'ho io, boh. Io ascolto senza codici, la verità. Prima di chiamare le tue impatti. Ti faccio una foto e te la mando. Vabbè, in questo adesso, in questo momento non te me lo mandi, cosa cazzo me lo mandi a fare? Però se domani sera sono a casa, ti faccio la fotografia e ti faccio sentire anche l'audio, se vuoi l'altro. Su 10. In PMR. E vedrai la scena. Allora, questo non ce l'ha, aspetta un attimo. Questo fa 5, 6, 7, 8. Invece l'altro va su canale 10. L'altro portatile che ho io. In cosa? L'V5V Plus. Domani ti faccio la fotografia e ti faccio sentire. Sentono in chiaro, tutti e due. C'è il canale 9 e il suo canale 10. Sono che dalle falso e il clone. Tu il telefono, tu ce l'hai adesso? Il telefono? Certo che io ce l'ho il telefono, ma... domani, quando aggancio come si chiama, il portatile, se c'è propagazione te la faccio sentire. Ti chiama al telefono, te lo faccio sentire come si chiama, come parla loro, e ti faccio anche la videochiamata, ti faccio, capito? Così lo vedi. E chiama. Quindi a loro, se io ho la frequenza per entrare, se c'è una frequenza, li ascolto io. No, io la frequenza non ce l'ho, è stata impostata già da prima, capito? A me me l'aveva fatta mio cognato, ce l'ho in tabella di apparecchi, capito? Sia in quello per la macchina che negli altri due. Sì, Antonella, in una frequenza per ascoltarli. Non è solo il numero 10. Ti ho capito cosa mi vuoi dire, aspetta. Allora, vediamo un pochettino adesso. Dove c'ho lo spinotto? Ti raggancio. Andiamo un pochettino. Magari sono fortunato. Allora. Aspetta un attimo, passo con l'altro, due minuti, avanti Brecco. Chi è Brecco, buonasera. Ob 31. A Germania, cattola. Aspetta un secondo, ti richiamo subito, due minuti. Eia, fai. Ja, das gleiche kriegst du ja noch von der Linke, dann ist das 30. Ist ein bisschen kompakter, hat aber die gleichen Futures und blaue Frequenzanzeige und gelbe Kanalanzeige. Ja, aber mir gefällt die neue 5000er Serie, aber das ist jetzt nicht so, weil ich gerade mal Handy komme. Normal heißt die nicht AT 55. Das ist ja so noch. Ja, sag ich ja. AT 55 plus / N. So, da habe ich mir auch die Software schon runtergeladen. Und ich auf dem PC drauf, für alle Fälle. Ja, das war wichtig für die Handkauf. Ach, du meinst die Kaufkarte, also sag. 80 Euro. So. Also ich kein Trick besser, also ich spiele besser auf SSD wie die neuen, die du von mir gekriegt hast. Die andere muss ich selbst. Ja, ja. Das müsste die auf LSD, auf USB oder runter. Ja. Aber die anderen, das gefällt mir 5000er besser. Die läuft auf Anhieb. Weißt du, der jetzt schon auch selber gut ist. Da ja così le stesse cose che il mio calcio è bravo, ma si può approfondire per essere più spero ohne hanno Leuten dahinter herzudrehen, was nehmen die kleinen Militäre Feierarbeit, ich bin dann ich auch gerne mit statt das arme Mädchen in den Schrank zu werfen. Ja, das ist klar, Eddie, ne? Das ist wohl logisch. Jetzt werde ich dich nicht mehr machen. Du hast mir wieder die Suppe, ey. Ja, auch. So kann ich leider meine Funkuhr nicht raushängen. Da in der Ecke ist ja keine Sonne. Ja, schon vor sich hin, Gammel. Von der so hoch, ey, ist auch gegangen. Ich hab halt gar keinen Garten mehr, man sieht halt nicht so in Dunkelkammer. Opa! Ja, von dem wieder, der kommt ja nur zum Rasen, ey. Mit Bachstein, das Schwein. Wenn er schon wächst, alles über. Efeu. Super. Allora, da 446 fino a 446 normale, 446 200 non ci vuole patente, l'aereo motoriale. Poi da 446 a 100 la modulazione analogica FM nel giugno 2015 è stata aggiunta alla frequenza 446 200 MHz da utilizzare con dispositivi dotati di tecnologia digitale standard DMR, che non c'è, allora non ce ne fotte proprio niente, il discorso è quello. Vabbè, aspetta un attimo. Guck mal gerade noch daran fest. 1,5 Kilometer weg, auch nicht gerade Flachland, ne, wo er da fest ist. Genau. Na komm, brauche lange zum Umklüppeln. Bei S-Suchmaschinen. Ja, ich würde mir für die DTI vielleicht mal auch noch eine längere Antenne holen. Dann mache ich das demnächst. Würde ich glaube ich mal eher machen. Ja, ja. Weiter hin, was man noch für Situationen hat. Oh. Hey, dimmi. Allora, sono in pratica frequenza 446 09 09375. Poi l'altro è 446 10 6 25. Il problema è che è 8 e 9 secondo la testa loro, hai capito? E per chiamate le emergenze in FM, che poi non usano per niente in teoria, mi FM chiamate CT CSS 88,5 Hz 8+8, quindi figurati tu cazzo, frequenza PMR va a fare ancora, aspetta cazzo. Uff. Codice da mettere, Franco, dove cazzo me le foto del codice? Allora, quello che mi hai dato adesso, questo, allora, questo è 446 093 093, poi il 75 viene, se lo prende in automatico, se lo prende. Canale 8 del PMR, che sembra canale 8. Allora, facendo i calcoli, aspetta. Cappa, perché domani ti mando quella tabella, quella che c'ho io, e poi la controlli. Allora, io su quei canali del PMR, canale 8, ascolto di solito i pescherigi. No. Allora, 446 093 0,9375 sono in pratica la frequenza del canale PMR e qui ci siamo. Aggiungici perché mi, allora qua mi ha fatto il calcolo, il cazzo è un casino ragazzi. Fanculo, 446, qui dovrebbe essere 105 e qualche cosa, poi l'altro dovrebbe essere 125, una cosa. Perché dunque il 7 è 446, 81.25, lì ci siamo, il canale 7. Quindi 446 093 375 a un certo punto. Hai capito? E siccome io non mi ricordo più la frequenza, cazzo, il discorso è quello adesso. Vabbè, ma non è importante, dai. Già piano piano già la troverò. Sì, ma perché questa frequenza ce l'ho anche io nel corso. Vabbè, già la trovo piano piano, dai. Mi ricerco tutti. C'ho tutti i PM e i coso, gli LPD. Aspetta. Qui ci sono i punti, forse questo è il problema. Allora 446 00825 P1, trasmissione di ricezione. Poi c'è 446 018 20 65, ma non è possibile, cazzo, e di meno non riesco più a ricordarlo, la verità, guarda, è la frequenza banonda. Il 018 è il canale 2, 018 75. Ma non ce l'hai un coso, cazzo, un ricevitore ce l'hai? Ma ce l'ho dentro la scatola. E lui che Vittore va a far cuffia a cazzo, guarda. E così cazzo lo trovi subito a un certo punto. Capo, domani lo tolgo dalla scatola e lo metto qua. Fai così domani. Così lo facciamo assieme, hai capito? Io ti mando la portante e così almeno la trovi subito. 9 e 10, sono solamente due canali, non è che ci sia nient'altro. Hai capito? Vabbè, la portante la posso, anche se c'è il ricevitore la posso mettere, lo posso ricevere sul PMR mio. Vabbè, ma io siccome ce l'ho su un tab i PMR che non sono l'ho programmato io, l'ha programmato mio cognato, quindi per quello sto dicendo. A un certo punto usemelo, se domani ci sei, e nel 27 poi ti schiaccia la patatina e tu mi cerchi. Non ci vuole molto, intanto c'è il doge bip, quello ta ta ta ta ta ta ta, una volta che tu senti il doge bip, dopo il canale 8, c'è poco da sbagliare, mancano due canali mi. Lo so, in effetti bisogna fare il canale 8, bisogna fare 0,93 e poi scansionare. Fai la scansione, così ti memorizzi come si chiama, gli altri due canali ce li hai. La scansione la posso fare anche con questo, con CRT, la posso fare. Posso fare tutto con quello. Anche perché io, mi viene male, cazzo, a fare come pensi tu. Cioè, io ce l'ho già programmato, capito? Quindi a un certo punto non è che posso sapere la frequenza esatta, perché è stato già programmato l'apparecchio, capito? Sia uno sia l'altro. Ma allora c'è quel PMR che non c'è niente. Dice solo dopo le due, dopo due e due e mezzo, tu accendi, cazzo, senti i francesi, come se ce l'avessi attaccata a casa tua. Capo, vabbè, quelli li prendo anche i 5.25 e arrivano qua a bomba. Sì, ma questa a me mi arriva una cazzo. Mica vuol dire. C'ho l'antenna del baracchino e l'antenna del VU a una distanza di un metro e mezzo uno all'altra. Ed è. L'antenna è un metro e mezzo dal tetto. Hai capito? E sento i francesi che è fotoscala. Hai capito? Non ho neanche sollevato la verità, perché se la sollevo guai. Io sono sicuro, se la sollevo loro mi sentono, hai capito? Prego, prego. Sì. No, io c'ho l'antenna che è già in alto, la mia, lo stesso, c'ho la X200. Con quella voglia mi piglio di roba. Già lo so, ma tu subito ti paghi per come ti vuoi dirmi. Perché è una cosa allucinante, io non ho mai sentito la verità. Di solito sentivo l'ospedale, cosa ti posso dire, ma questi cazzo parlano in francese, in chiaro non lo sentivo per niente, mai sentiti in vita mia. E poi alla fine se parlano francese, a meno che capisci il francese, perché se no a cosa ascolti a fare? Capisco quello, ciò che dicono un po', hai capito? Perché in pratica loro parlano tutti i giorni, dice, c'è propagazione, dice, noi parliamo dalla Corsica, dice, parliamo dice, con cosa, con Parigi, hai capito? Tutti i giorni. Capo, sì. Ehi, vabbè. Comunque, no, qua non mi arriva bene, la Francia arriva bene, la Spagna mi arriva bene, e gli spagnoli li ascolto spesso perché quelli sono facili a capire. Vabbè, gli spagnoli li capisco anch'io, se per questo, ma comunque sia. A un certo punto. Aiuia. Riesci a vedere se c'è coso. Se sta lavorando, riesci a vedere se così entra in PMR. Se lo chiamo, aspetta, se lo hai dormito, perché non ti hai fatto dormire questo, vediamo se mi risponde, dato lui fa le vigili notturno, vediamo se alla prova. Rubrica. Vediamo se c'è. Lui. Vediamo se mi risponde. Se c'è. Sul canale 7 fa sentire il PMF. A chi stai chiamando a questo? Ho un amico che lavora a vigilanza, che costava in giro. Ah, un amico che è una vigilanza. Ehi, ma dove dimmi? Dove dici tu? Ah, ho capito. Allora lo conosco. Pietro si chiama, c'è una macchina rossa, ciao. Di solito va lì in vigilanza a San Camillo, a Coso, alla Ozzieri, quello che è. Ma anche dove ero io l'ho fatto. Ho capito. Ho detto? Ha fatto anche vigilanza dove ero io? Sì, di solito mandano Ozzieri, oppure a Coso, in mezzo alla Mondezza, giù a Canica. Intanto lo mandano in qualche posto strano. Se ha lavorato dove ero io, probabilmente lo conosco. Di solito quando lo chiama questo non risponde, perché tanto è sempre di notte, cazzo, mica di giorno. Poi adesso ce lo metto di notte a fare il coso. E quindi. E invece, vediamo un pochettino, magari è uscito. Si è spostato un attimo, si è spostato. Sassa? Di dov'è? Di Sassari? Eia. Adesso ci stavo pensando. Hola, chi è? Hola, Coca-Cola. Good evening. Hola, Germany. Guten Abend, Germany. Die Delta Kilo, Hotel Alpha November Sierra, OG, mein Lieber. Hola, Sera Delta Kilo, Italia, Isola Sardegna, Stazione 1, Alfa Lima. Hola. Salima? Cazzo sa qua ce lo stanno per i tedeschi io. Sono informato a Roma a vedere da sé in giro. Cosa? Ola, ma non c'è nessuno che sia francese, niente. Bella, una bella ragazza, non c'è. Tutti maschi siete. Tutti quelli che vogliono in acciaio. Tutti con Manganello sono, tutti tedeschi con Manganello, ma un tedesco cazzo femmina, ma come non c'è una ragazza tedesca femmina cazzo, che palla. Meno male che non sono africano. Questa lima 4 ore Alemagna. Sono fatto una bella oggi cazzo. Quello bueno, di sicuro mi sono passato allora. Come avete in tedesca? Avreste anche uno duplex? Ete. Comunque, probabilmente ti ho capito, perché sono altre due frequenze dopo canale 8, 8, 9, 10, sì, forse ho capito quale frequenza è. Sono due, ce ne sono altre, parlano solamente in due canali, 9 e sono 10. Non parlo di nessun altro posto. Sì. Perché questo è 081, il canale 7, 08125. Poi va di 2 a 2 mi sembra che sta andando. Devo fare i conti della frequenza. Non è difficile, domani mi metto e me ne faccio. E infatti io li sento, però parlarci non ci sto parlando. Secondo me c'hanno la così c'è il sono frequenze in pratica che c'hanno tipo ponte, mi capito quello che ti voglio dire, tipo shifting, loro usano quelle mi in Corsica, dalla Corsica alla Francia, in pratica usano il ponte radio. Secondo me, perché li ho sentiti parecchie volte, che c'è una specie di ponte, c'è, però non sono le matture, il discorso è quello, sono CB, in pratica, loro usano quelle frequenze lì e basta, tutti i giorni, tu li senti tutti i giorni, dopo le 2:30, le 3, se tu accendi, li senti e basta, a parlarci no, io non ci ho mai provato la verità. Però arrivano a fondo scala qua, figurati. Sì, perché i francesi ci possono parlare in quelle frequenze, ci possono parlare magari, e noi no però, capito? Ed è quello il problema, che noi non ci possiamo parlare, perché noi arriviamo sino al canale 7, dobbiamo arrivare. Mi sembra che abbiamo 7-8 canali, forse all'8 possiamo anche parlare, però non possiamo uscire fuori. Fino all'8 non possiamo andare, perlomeno adesso, però abbiamo conosciuto solamente fino all'8. Io siccome ho conosciuto questi due canali, delle frequenze che mi sono state impostate non a me ma da mio cognato, e quindi mi sono accorto, ho detto, questi due cosa ci fanno qua? Sono 9 su 10, c'hanno solamente due canali e basta, non c'hanno nient'altro, quindi qualcosa c'è, non lo so. Loro parlano di propagazione, che parlano di propagazione e cose del genere, tra la Corsica e la Francia, hai capito? non parlano di nient'altro, non è che parlano di propagazione con altre cose, sono cose che è Francia. Sì, quelli parleranno tutti insieme, perché tanto fa parte tutto della Francia adesso lì la corsa. Vabbè, loro hanno leggi diverse dalle nostre. Beh, logico, è una cosa diversa dalla nostra, hai capito? Però loro a casa mia qui arrivano a fondo scala, quindi se arrivano da me a fondo scala, figurati a casa tua come arrivano, è come se diventassero dentro a casa, tu ci hai di fronte. Sì, ma poi sono quasi sul mare, vedo tutto, vedo, capito? Appunto per quello, ma siccome io ho l'antenna che ho installato io, te l'ho anche detto, che è distante un metro dalla mantova, se io dovessi mettere la mantova piazzata dove c'è l'antenna della VU, sono sicuro che io parlo tutti i giorni con la Corsica in chiaro, in 27, questo è poco ma sicuro, cioè proprio il canale aperto per la Corsica, e invece dall'altra parte è aperto dove c'è il caminetto per la zona del centro Sardegna, tanto per dire. C'ho quei due punti e sono aperti, ma ce la faccio a stare a modificarmi le cose, a spostare guarda, in pratica me ne sono accorto per sbaglio, perché prima quando usavo il PMR non sentivo neanche un cane. Poi quando io ho installato l'antenna di lì, dove c'è l'antenna della TV, che ci ho messo io la mia, sentivo questi qui, sono 9 su 10, gli ho detto, che questi dove sono usciti, strano. Invece dove c'era la mantova, quando giravo il motore, ti dico di quel motore famoso, quello della parabola, la giravo in verso Alghero, sentivo i traghetti spagnoli in chiaro, belli tranquilli, in PMR. Se trovi in cara natura, perché UHF non è tanto facile modulare a distanza, quella devi stare attento, basta un niente e non ti fa passare. Sto dicendo, io con il PMR, quando usavo il motore della Telesystem, puntavo verso Alghero, parlavo tranquillamente con i traghetti. Loro nei traghetti, sul ponte, io tranquillamente a casa, hai capito? Perché me lo ricordo, quindi a un certo punto. È una posizione che ho io, e purtroppo che io, non è che quel motore mi si è bruciato, se avessi avuto un motore di coso, l'avrei pensato quella di quello che ho io, e mi sarei divertito tutti i giorni, tanto per dire, ma non me ne fate niente, capito? Sì, vabbè, benissimo che la direttiva non la possiamo usare, se no addirittura vi lasciate a vedere abbiazzate la strada, anzi ne ho una, ma ne avevo buso un pagina, avevo buso. Io mi ricordo quando c'era quel signore che parlava di PT, tanto tempo fa su Canale 1, da Genova, che arrivava tranquillamente, che sentiva tutti in direttiva, chiamavano 25 elementi, orizzontale, piazzata, tu figurati tu. A centro storico ci parlavo con l'antenna in gomma, io mi figurati. Sì. Se lo beccano quello guaglia. Lo so, eppure è stato quasi 2 anni che parlava con noi. Ci parlavamo tutti, io, tutti i CB che c'erano, il 27. Parlavamo tutti quanti nei PT, se ti ricordi bene. Io usavo lo standard lì, andavo sotto casa con l'antenna in gomma, con lo standard, con lo portatile, mettevo vicino dove abitava padre Francesco, lo chiamavo e mi rispondeva a casa, bello tranquillo. Dice, sono appena puntato, dice, in Sardegna, mi ha detto, a Sassari, vi sento tutti, mi ha detto, non c'è nessun problema, c'erano 12 elementi, ci aveva. Poi, vabbè, è successo, mi sembra che ha parlato per 2-3 anni, una cosa del genere, dopodiché io avevo cambiato casa e non l'ho più sentito. Capita. Io prima, quando tanti anni fa, sto parlando di tanti anni fa, quando c'era Pietro, Braccio di Ferro, tutto quanto, noi facevamo le notti quando non dovevamo andare a lavorare lì, la mattina, quando ero a riposo, facevamo la notte e parlando con la Corsica in diretta, con Agnaccio, perché era più difficile, ma con Agnaccio parlavamo tutte le sere. Così è bello, vedi, ma è 27 però. Il 27 parlavamo, ma era micidiale. Era una telefonata, era. Lo so, ci abbiamo vicino la Corsica italiana, lo sai, detto, quindi. E facciamo vedere la Polartove, se sono su Senori, quella zona lì la prendi per forza, la prendi. Ecco, e allora non avevo 5 metri di palo, no? 6 metri di palo, no? Avevo due tubi innocenti, uno dentro l'altro, da 6 metri, e li ho tirati il collo, li ho tirati fino su, e ho fatto 12 metri di palo. Tu devi vedere quanto era alta la mia antenna, bella ancorata, esce. E dove ho arrivato? Io con Alghero ci parlavo tranquillo prima, adesso invece mi ascoltano basso, perché l'antenna è molto più bassa, 6 metri più bassa. Sì, vabbè, tutta un'altra cosa prima era, non c'erano i venti da adesso. Adesso è pericoloso, anch'io mi sono abbassato tutto, lo sai. Prima c'avevo 6 metri di palo, c'avevo 600 watt in casa, figurati. A un certo punto ho detto, ma ce la faccio stare, cazzo, spaventato la notte, cazzo, che uno, prima o poi mi succede, cazzo, che me ne scende, cazzo, il palo in terra e faccio danno, ammazzo qualcuno, ma se la può pigliare in culo, ma chi ne è quanto l'ha fatto? Ho preso e sono sceso a 2,5 metri, sono sceso, prima c'avevo 6 metri di palo, tondi, non c'erano i caseggiati di adesso, già te lo ricordi, e quindi so, patamona, tutto volevo, col binocolo, figurati. Adesso mi hanno fatto queste cavolo di palazzine, quindi non vedo più un accidente. Adesso per poter arrivare forte come una volta dovrei avere minimo 12 metri di palo, se mi bastano pure, se no 6 metri. Non me ne fate per niente, no, non mi interessa. Non devo stare spaventato che la notte la mantova incomincia a fischiare e fa come faceva prima. Ma sai quante volte mi chiamava il condominio a me? Antonio, non ne possiamo più con questo quarto di la notte, non si dorme più in questo palazzo qua, eccetera, eccetera. Ho preso, ho dovuto tagliare il palo in due. Non tanto l'antenna, ma i radiali, è un casino, fa rumore, sì, vabbè, purtroppo è così. Io ti dico una cosa, io mi sono divertito abbastanza prima, mi sono divertito, e poi noi da Sosso eravamo in pochi che parlavamo, mi sembra che eravamo tre o quattro che riuscivano a parlare quella cosa. In diretta non tutti, in diretta parlavamo solo io e Pietro, mi sembra, in diretta, poi gli altri tutti agganciati con lineare e cosa così. Figurati tu. Ah, beh, visto, sarebbe bello parlare di nuovo in diretta a caso con la Corsica, la verità, con i cibi di Sassi naturalmente, no? Un cibo di corsicani, no? A te lo ricordi a Cristia, quello che era l'Alghero sul monte? Cristal, sì, che me lo ricordo, quando parlava a caso con Cagliari. Quello, Cristal. Quello a me a casa mi arrivava, 9.20 mi arrivava, quasi 9.30, e io gli arrivavo la stessa cosa. Me lo ricordo, era Monte Doglia quella, per esattezza. Sì, se fossi stato lì, la verità, abitando, cioè non abitando, lavorando, se tranquillo ci aveva messo una Grand Prix come aveva fatto lui, io l'ho vista la Grand Prix. La Grand Prix piazzata a 2,5 metri d'altezza dal terreno, e parlava con tutti, non c'era bisogno di nessuna mantova, di nessun corso. Buone in Italy. Conte. Lui era più alto di tutti in Sardegna. Ma sa dov'è? Dove c'era il faro per gli aerei. Già me ricordo di dove mi dico Cristal, non ti preoccupare. Ho conosciuto anche la figlia, parlavamo sempre assieme, parlavamo. Poi una volta ci siamo conosciuti, lo sai, tanto tempo fa, prima di morire lui, l'avevo conosciuta, mi aveva portato per andare a casa sua, la verità, per andare a papà, lo fa lì, cioè, ti faccio conoscere la figlia di... quindi figurati tu, avevo conosciuta, dice, ti ricordi, dice, quando parlavamo assieme sembravamo come i due fidanzati, mi ha detto, e io sono rimasto un po' così, dice, sì, me lo ricordo, gli ho detto, tu sei la figlia di Domenico Cristal, dice, sì, sono io, mi ha detto, dice, noi abbiamo passato, dice, tante notti, dice, assieme, 2000 fino alle 3-4 del mattino, cosa del genere, mi ha detto. Poi vabbè, non c'era solo lì, ma c'era anche altre 4-5 di ragazze che parlavano l'Alghero, figurati, da Fertilia, ci facevano compagnia, mi facevano compagnia fino alle 3-4 del mattino anche loro, non solo l'altro. Dopodiché poi c'erano quelli di Campanella, poi c'erano quelli di Cosa, ormai sono spariti tutti. Tutti spariti so. Sì. Non è che sono spariti, già si trovano, però hanno mollato tutto, ci hanno buttato via baracchini e via. Mi meraviglio di Isidoro. Isidoro che lavora in campagna, c'ha i trattori, c'ha tutto quanto, che non se l'abbia piazzato mai sul trattore. No, Isidoro faceva il muratore. Ha mollato tutto, il trattore c'era in pratica il cognato, il fratello della sorella, il marito della sorella c'era i trattori, lui faceva il muratore, poi la madre è stata male, quindi lui ha dovuto fare il mandante alla madre, capito, eccetera eccetera. Un giorno mi ha telefonato, dice, no, Antonio, dice, voglio che c'è un baracchino a regalarmi un'antenna, gli ho fatto. E cosa sono, ho detto io? Mi riporto così, secondo te cosa sono io? Uno che compra le antenne agli altri, gli ho detto, e i baracchini. Ce li hai i soldi, vai te lo compri, gli ho detto, scusa. Io l'ho conosciuto di persona. Io pensavo che lavorava in campagna, però, non so, perché visto che il padre Cosoletti e Paz, che erano gente di campagna. No, lavorava, faceva manovale muratore, abitava a Sassari addirittura, vicino al corso Vito Emanuele lavorava, che non lavorava, dormiva, c'era la casa lì insieme alla moglie, poi lui si è separato dalla moglie, ha avuto un paio di figli e poi è tornato in pratica a casa della madre, insieme ai figli eccetera eccetera, con la moglie se l'ha mollato e ne ha avuto casini, me l'ha detto anche lui. Io l'ho conosciuto, lui aveva il 128 blu giallo. Esatto, sì. C'era così. E poi non l'ho più visto, non l'ho più sentito. Sono spariti. Anche quelli di Olmedo sono spariti, tutti quanti. Poi c'era... Ah no, di Olmedo c'è Rita, che adesso sta parlando... col telefonino, vai, però c'è per il baracchino. Ma guarda lei, io me ne vado a nanna, me ne vado tutto giù e me ne vado a nanna. Chi si passa a sfidare? Di muove? Antonella, ci sei? Antonello? Io sono entrato. Se non sei andato dentro mi sarei pisciato addosso, te lo dico io. E va bene, dai. Oh, io vado, mi ci curico. È quasi mezzanotte, tutta quasi. Arrivato giù su un tempo cazzo al water closet, ti diceva quello. Cazzo. Ho fatto mezz'ora di pupù, ho fatto. Con questa confessione di cosa, cazzo. È una cosa diuretica allucinante. Lasciala stare la birra, non è bene, bevi l'acqua. È peggio. Buono è una e meglio è l'altra. No, è quella diuretica, capito? Quella là della, con la limone, non è che sia altro. Perché di solito mi faccio la tisana io. Non mi piace a me quella limone, cazzo. Quella normale è migliore. No, bevo con la limone io. Non ti ubriaca, non ti fa niente, anzi ti fa solamente bene. Perché ti toglie tutto, ti toglie, capito? Poi la mattina mi faccio per la mia alto la tisana e sto bene. Capo, va bene, dai. Ciao Antonio, buonanotte. Ce la riascoltiamo. E a domani. Quando rientro domani ti faccio sentire quella roba lì, così a me non la senti, da. Ehi, va bene, vediamo, sentiamo, ciao, buonanotte. Ehi, ciao, buonanotte, a te tanto, ciao.